sono in VHF qua. Sì, c'è sempre piacere, Roberto, Gianfranco, Calagrefo. Io sto trafficando poco perché ho l'antenna troppo bassa e disturbo la televisione, quindi devo aspettare a tirarla su. Ah, per quello che non stai trasmettendo? Sì, disturbo la mia televisione e allora non trasmetto, capito? Ma è appoggiata, capito, è troppo bassa, lo tirare su, metto tutto a posto, una giovana, non me la frutti niente, non me frega niente, è perché è diventato il diamante Roberto, quindi ho ripreso, giusto per fare due chiacchiere, ma non ho voglia. Non ha giugana, rifà nulla. Già vi seguivo, dai. E io non c'era neanche stasera, ma non è che io no. Cioè, entro, però non posso modulare, capito? Posso salutare il buco, come faccio? Anche io ho salutato e tocco in ascolto. Non so, disturbo, capito? Ah, beh, certo. C'è tu. Se disturbi, ma disturbi a casa tua o disturbi anche gli altri? No, a casa c'è gli altri. Senza gli altri. A casa mia, c'è la mamma di un giorno io. Diciamo il cielo di casa. Beh, ma è da casa giù, io c'ho la casa mia. Io disturbo la mia antenna TV, la sua non è nel mio giardino. Perché è bassa, ho capito. Io non lo trasmetto, non so se disturbo, vabbè, la mia già è alta, già l'hai vista quando ho piazzato. No, ma poi già va bene, vabbè, e io ho voglia. Ma non è questa grande resa. Non è questa grande resa, nada de nada. Lascia vedere. Adesso mi è... Adesso non mi fa male il braccio, ma non male, da di meno. Cazzo, ma stasera mi stava martoriando. Lasciamo la quella signetta, Nibu. No, già ne c'è buio. Non lo so, c'ho. Secondo me è roba di scimmie, bu. Parecchina. No, roba di scimmie, tre scimmie. Sì, parecchina signetta, là. La parecchina, per carità, va. Proverità. Oia. Vabbè. Se vuoi qua. Tanto mio. Ho muore di drone, muore di rampi. Sì, ma infatti. Ho muore di drone, muore di rampi. Ho muore di rampi, muore di drone. E poi è cool. Vuota sei tutto. Bobolì. Amore, la patata asciutta, no? Aspetta. Signora, io... Oh, yeah. Ora, uno, due, tre, prova radio. Adesso me la regolo io, riesce a vedere. 1, 2, 3, 4, 5. Troppo alta era. Eccola qua. Adesso la regoliamo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, così non mi piace. Allora, facciamo così. Così è troppo alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, troppo alta. Così è troppo alta lo stesso. Allora mettiamola così. Eccola qua. Così a 6, va bene, a 5. Sì, io ho voglia. Era troppo alta lui. Era troppo alta. Passiamo anche i Mickey Green della radio. Guarda. Eccolo qui, perché era troppo alta, capito? Sì. È fatto come che mi si è bloccato. Lo si è bloccato il computer. Non si lamenta mai. Vabbè, i suoi anni, comunque, da, va, molte volte va senza problemi, molte volte mi fa che si blocca. Lo devo spegnere, in realtà sto riaccendo. Voglio buttare in giro. Cazzo, faccio un po' incasinato perché devo andare a tagliarmi i capelli. Solo che il cugino di Marina domani, l'ultimo giorno, poi deve partire, diventa il 18. Adesso vediamo un po' un altro che me li fa. Per 10, dai. Anche questa buona. Jean-Baptiste. Non è il casino. Processione, senza processore, senza processore, col processore. Funziona? Sì, sì. Ma non è bassa la modulazione, perché vedo il picchio che funziona. No, è buona, ottima. Meglio di quella che stavo usando poco fa con l'MB più 5. Non è che si allontani più di tanto, è buona comunque. Già va bene. Gappa. E tu quando devo andare a pigliare un gappa? Non te ne basta più? E adesso qua devo... Sai, con la spesa qui si vedrà se ce la faccio, sì. Però mi voglio prendere una che agisca lo squelch. Che agisca lo squelch? 140? No, in FM, in AM no. Non è vero, non è meno, il 4.30, il 4.30 o 4.40. Esatto. O uno o l'altro. Io ti consiglio il 4.30. Ti consiglio il 4.30, anche se ha meno memorie, però meno problemi hai, ci ho capito. Io lo so. C'era l'accordatore, sì. No, l'accordatore non è un 4.30, già te ne vado l'accordatore. Sì, l'accordatore 4.40, cos'è l'accordatore? Non l'ho mai trattato, io l'ho trattato una volta e si è inciudato. L'accordatore chi c'è? Ma è roba. Quanto si può trovare? 4.30? 350 euro, 400, 300, dipende. Dipende. Adesso vediamo. Dipende più o meno lo stesso valore del 4.40. Sono limmi. 20 euro in più, 20 euro in manco. Gappa. No, io di 4.40 non ne voglio più, manco più di cartolina. Basta, mi ha creato un bel di spese, ma un bel. Bellissima radio, funzionante, però. Io ho il CAT, 140 e 4.30, e va bene così, radio che non danno problemi e che funzionano alla grande. Avevo sognato 2 anni e c'era un cazzo di VCO, di casini, balle e poi va. Immaginate quella che ho preso io, che poi quando ci vediamo ti dico chi era, ed era la mia, cioè questa che sto usando era la mia, era 4 anni dentro l'armadio. 4 anni, se fosse stato un 4.40 manco accendeva, l'ha presa, l'ha attaccata all'alimentatore, funzionante al 100%, solo manteneva le memorie. Allora mi ha telefonato e mi ha detto, no, non è niente, la batteria tampone, portano le tre a cambio, invece non mi ricordavo che era saldare. Allora ho consultato quella persona là, mi ha detto, no, di salda tranquillo che poi ti do io il porta batteria. Capito? Mi ha dato direttamente il porta batteria, gliel'ho saldato, è stata la batteria dentro, una canonata a posto, gli ho detto, memorizzato, ok, lungiamo, mica la radio è pronta, vieni a prendertela. E anche adesso vediamo, sai, sto parlando, ti ricordo dove siamo andati noi, per capirci, mi sto a fare i nomi, dove siamo andati noi in macchina, veramente, a piazza d'antenna, lì lontano. E viene a prendertela e mi ha detto, ehi vabbè dai, già ci vediamo, dopo 2 o 3 giorni mi richiama, oh, vieni tira la radio, no, non è che è, no, me ne vado nulla, non è che è, e tu vieni a prendere i soldi, e gli ho dato gli stessi soldi che l'aveva pagata. Ho capito, già mi ricordo, cosa non ho più sentito qua, Archimede. Archimede. Ah, dove siamo andati noi col Volvo, non te lamenti? Dove siamo andati? Io, tu? Eia, sì, no, ma dico. Ma sì, mi dava Archimede, non l'ho più sentito. Ma non l'ho più sentito, non l'ho più visto, ma neanche banda amatoriale, in VHF, non HF, non l'ho più sentito, no? Non so. La gente si ritira, tra le tinchia. Certo che sì. Ecco cosa vuoi ti faccia? Oh, Lucaria, dove li trovo quei cosi, quei fusibili di macchina? Fusibili di macchina? E quelli quadrati con la spinetta, dove li trovo? Quelli anche da Mauris. Oh, c'è un connettore che ha quegli attacchi lì. Ma io penso che hanno molto ci attacco. No, non accendeva una radio. Ho controllato, c'è uno di quei fusibili bruciati da 30 ampere addirittura. Dovrei avere qualcosa io? No, e domani mattina intanto vediamo se esce. Se esce o no me li faccio prendere. Beh, se no c'è qualcosa io, devo controllare il gabuzzino. Sì, ma qualcosa dovrei avere anch'io sicuramente. Aspetta, questa radio. Sono a 40 watt di portante a 100 modulati, l'ho messa a 80 a 100 modulati, l'ho messa a 100 a 110 modulati, e anche questa scheggia, questa me l'avevo fatta per me lo stesso, mi è nuova. 140? Via, 140, 10 e 140 esce. Va che bene. Gli era volata 2,50 me la batte. Va bene allora. Ho comprato un altro MC60, ho fatto arrivare Roberto dalla Mascar, poi l'MC50 è diventato 60, me l'ha modificato Fabrizio, quindi c'ho tre radio con tre, diciamo, MC60 là. Va benissimo. Ma forza, attendi, non so fare cosa che tu devi fare. Giusto mi basta che sei stata bellina quella casetta, però no. Non sono mai andato, non so come fare. È bellina, molto bella, sì, sono andato. Sono andato l'altro giorno, molto bella. All'ingressino, sotto c'è la cucina con un salottino piccolino, e poi sopra c'è la scala in legno, bella, a chiocciola, molto bella, e il soppalco con la camera da letto. No, non sono mai andato. Ehi, vabbè, per lo già basta, voglia. Sì, è ovvio che basta la voglia, è pulita. L'ho preso, pulita, con la pimmi, pulita. Beh, certo, pulita ci vuole, la si butta. Bella, pulita, ordinata, sì, bellina, mi piace un bel, molto intima, per due persone è una canonata, perché c'è la camera da letto su, capito, metto a trimogliare, armati, tutto, tre cose. Solo Antonio deve fare carica da andare in bagno, infatti ha detto, cazzo che non ti attacchi una manichetta, direttamente quella che era un comodo. La bomba che c'era due bolle, ci vuole un butto, ci la notte, buchi, lo mangaglio a fuori bordo, e quello una mangagliata. No. Sai, mi ha detto, anche mai c'è più c'è due sotto, tanto ci può fare, ma non te ne vuoi. Oh, buono, è butto, una bomba, due bolle, c'era quelle che direttamente era un gomolo. Le voci fuori murata, come si dice ai navigante con quel scheggio? Poi gli mangaglio fuori murata e vamo già alla playa. Faccio di fletta. Allora, e così una... e vamo. Ah, poi batti la catena, ti fanno un pezzo di cannao, ti vorrei la cordicella, chi è? Sì. Allora, adesso so perché la chitarra. Allora, chi c'è quello per la pipì? Ah, io trovo che ti gioca che ne fai uno scifo, un taurone. Se vai a Rondurò. Che scivolo. A allucinante. Attento, Bobolino! Sciara lo tiene molto, molto ristretto, lo tiene Sciara. Allora, molto ristretto. Lui, mamma mia, questo. Ma mi pacco, ma c'è appuntamento e forse, mi fammi le giacenze. Ah, le giacenze medie. Eccomi, porca miseria. Ma qua non mi ha chiamato, ci mi ha mandato un messaggio, ricordati infatti la giacenza media, sì sì zio, chissà se si è inventato. Bisogna farle per il modello ISE. Se c'hai il conto alle poste. Ah, c'è il modello ISE qua. Ah, il modello ISE, ho capito. Capito Dio. A me mi dice un modello ICE. Lunaggio di Baia. Mamma mia, l'uomo è sotto. Vedi? Quei soldi, ecco, questo è il doppio a casa, vedi, quella che avevo prima. Questo è il doppio, doppio. Un doppio è. Limo, quelle cose lì sono tutte raddoppiate per me. Un po' di spesa, eh? Ehi! Il doppio ogni anno. Un casino, eh. Ah, devo comprare domani se hanno messo l'affitto su internet. Potrei mandare un più bollettino, devi scaricarti il modulo e puoi andare col codice QR. Proprio così. Lascio. Adesso funziona tutto così. No, io ho già preso appuntamento il 7 con andare al CAF. Il 7. Io ogni anno, ogni inizio d'anno ho la variazione IPS, capito, da fare. Sino a 63 anni, se no non mi danno pensione. No, te la bloccano. Allora, per forza, io sono un professionale, metto solo per il percorso io, capito, fino a 63 anni, ogni anno devo fare la revisione, adesso non so che documenti vogliono quest'anno, ma penso che la dichiarazione dei redditi, quelle cose lì, capito. Sì, tanto a me gli hanno venito a pensione. Sì, perché era di agire in tocca pensione. Quando andate in pensione voi sono morti anche quelli che lavoravano all'Inps. Tutti morini, chi si muore in tutti, ma no di gruppi, no. Il reddito di bagaccia, dici. Quelli di Arisano è fatti loro, sì. Tutti uno di due vecchi, Ma mi hanno mandato una lettera, dice, se volevo anticipare il 100%, io prendo l'80%, ma già mi basta, già. Sono quasi 1.300, l'80%. Mi ha detto quando, se volevo anticipare, potevo pagarmi le 52 settimane rimanenti per arrivare al totale che mi manca, fino a 63 anni. Ho detto, sì, quant'è in soldi? 3.500 euro. Hai già ascolti. Ma lei di dove? Di Ardara o di Chirivani? Di Brubani. Sempre di no, Bruni, sempre di no. Di no. Ti ho fatto bene così. Secondo me mi basta. E aspetto 2 anni e poi mi ridate senza darvi niente io. Vabbè, ma era per anticipare, no? Se più problemi. Chi ci annaggio di na, già mi basta, chi su che mi vedi, chi su che faccio, voglio dire a te di na, andiamo alle devenghia. Che cazzo, ma capisci, avevo spicciolo, che cazzo 3.000 euro? 3.000 euro all'anno sono, 3.000 euro all'anno, 3.000 euro all'anno, e mi erano 52 settimane, sono un anno e 6 mesi, 4 mesi, 3.500 euro. Capito. Ecla, capirà. No, ma io pulci viaggi non ne dirò, non ti preoccupare, già mi va bene come sto, grazie a Dio non mi manca niente, assolutamente. Aspetto, quando arriva il mio turno mi danno il massimo, adesso prendo l'80, andiamo davvero a testa, radio che se domani sposto tutto qua dietro, vedo polvere, troppa polvere, domani spostiamo tutto, elucidiamo tutto. Poi io domani aspiro a polvere, attacco. Io dietro le radio lo faccio una volta alla settimana, ogni due settimane, Luca, che lo smontare tutti i cavi, togliendo una rotta le balle, vi convenare ne una e buh. Basta, qua c'è una radio, le altre tutte conservate. Non si buca, cazzo, per me quando inizi a avere due o tre piani di radio, una scrivania è già da 2,50 m lui, e tutti gli alimentatori che sono sotto, gli amplificatori, le apparecchiature materiali, una rottura di balle a spostare tutto, a spolverare qua, lascia perdere. Non lo so. Io lo so, ma quando ti faccio un esempio, hai un mobile, no? Hai molti soprammobili, cazzo, un casino, ti bucano di tutto, pulito, da pure altro posto. Paditi che non è un gioco, però bisogna farlo. Infatti io domani mattina ho roba da fare, così. Anche nella cristalia lo stesso, è tutto da levare, dargli una cipaccata. Per forza dobbiamo fare, Ludo, già chi te lo fa? Non è che te lo fa di tua madre, no? Nell'aria qua non voglio manco che ci entro, questa non la gestisco io la cameretta, capito? Anche perché qua dorme Filippo, quindi la mattina devo pulire, fare, disinfettare, sanificare, aspirare, capito? Ma io guardo tutti io. Perciò, e più c'ho le radio, perciò bisogna mantenere tutto pulito. Ciao, è un casino, capito? Filippo, drommi con te, con Orlandino di drommi. Chi? Orlandino. Orlandino, Filippo. Tu dormi con me. Tu dormi con me, perché sennò lui, se non mi vede, no, se ne va. Non dorme assolutamente, è così, non so che ti dica. Anche te dorme con me in terra, lui siamo un buon affitto, a te io ne mi tocco in terra. No, in terra sta, c'ha il materassino suo, la bambinetta, c'ha il lettore di sotto, il lettore di sopra, la copertina, cazzo di mio ne vuoi, fa un letto. Che idea, c'ha le copertine, ma ci dorme sopra le copertine, o si copre, io la copro e lei si scopre, c'ha il suo materassino. Filippo più nei buoni di matti è più, ci farò piumone, cioè il piumone da lettino, piumone da lettino, come c'hai tu, no? Piumone da lettino, girato, doppio, no? Io a volte glielo metto quando faceva molto freddo, no? Prima di attivare il riscaldamento, c'era freddo la notte, e glielo mettevo doppio, cioè dai, andiamo fuori che ti copro con la copertina, no, sotto lo piumone ce ne entrava più la copertina, ci vedeva solo un mozzichini. Quanti anni ha adesso? 10 ne deve fare. Io ho finito con i cani, buh, finito. Tu pensi che ancora cominciare? No. Assolutamente. Quando non c'era più Filippo, io non ne voglio più. L'aria contraria, dice papà, c'è il giardino, guarda che serve, il cane, ti avvisa, qui e là. Ma non me ne affutti nulla, che non c'entra anche tu, non gli avrei abitura. Ma sei qui, io voglio abituare a Eva. Aveva il ufficio a bicchiere al cruzio, una bicchiata, già di seggi. E hai la bidaggio, e parlo a te. Ehi, c'ho la pompa, c'ho tre atmosfere nella pompa che c'è fuori il giardino. Come ti dici la bicchiera della pompa, no? C'è la pistola attaccata alla pompa, per innaffiare. La gente dice, lo buco di volta in capo. E poi me lo tassello. Avevo con colpo di bara, a che chattal da me, a Mignò, a che chattal da Rumenza fuori al giardino. A che chattal da? Tuia, chattal da chiscia. Cazzo che ore sono? Già le 10. Noi? Eh sì, Sardegna. Tuia, vabbè, questo. Tanto io mi ci dughizzo. Mi addormento presto, io alle 9:30 la mattina, vuol dire ci dughi a dormire. Però la mattina alle 6 mi alzo. Ciao Claudie, un saluto a tutti. Ciao, chi è? Caspita, non mi riconosci. Sono io, sempre lo stesso. Allora, ciao Gianfra. No, perché volevo le cuffie poco fa, c'è un orecchio che avevo tappato. Tu mi ha tappato anche l'altro orecchio. No, eravamo a farci una chiacchierata con Roberto, fare alcune cosette verso l'alto. sicuramente ci ha ascoltato, ma se non finisci quei lavori ti viene un po' difficile salire. Ok, era per salutarti, ti ho sentito fino a tardi, anche io è tardissimo. Saluto anche tutti gli altri, buona serata, buonanotte. Ciao, riprendi Claudio, alle prossime. Dove eravate, 6 metri? No, è 144 in banda laterale, e poi su, non me lo ricordo più, stavo facendo prova, c'era anche Walter, Marco, poi sono andati via. Se ce l'avate sicuramente era chi arriva più forte, quello senza avrei dubbio. No, non è un banda laterale, io... riapro la prossima settimana la centro assistenza, quindi dovrò stare per un po' in attesa prima che mi mandino la radio indietro. Poi una volta che arriva quella lì, allora c'ho anche le bande laterali. Per il resto c'è solo FM e basta. Va bene, ciao Gianfra, grazie per essere entrato a salutare. No, io lì c'ho tutto spento perché ho disturbo la televisione mia, capite? Quindi non avrei rotto il ballo con mia moglie, allora tengo spento. Non sto parlando per questo. C'è un'antenna troppo bassa, pure lasciando andato qualcosa in tilt e disturbo la televisione mia però, non quella degli altri, la mia. Avanti Lupo, di saluti. Ciao Gianfra. Ehi, ciao Gianfra, salutori. Ciao Luca, buonanotte. No, ricordatevi di cambiare canale, che hanno fatto lo switch off televisivo, quindi la Rai non si vede. Ok, ciao a tutti. Già fatto. Adesso è in HD la Rai, te lo do direttamente, lo memorizza in HD? Sì, confermo. Ha messo sul canale 1, quindi fa la programmazione, hanno messo un sacco di ciarpaglia di canali veramente indegni, perché già arriva a 200 canali, 240, una cosa del genere, ma per carità del cielo. Vabbè, ok, ti sono risintonizzato, così almeno vedi 1, 2, 3 normale. Ciao! Sì, ma in HD davvero però 1, 2, 3, perché prima ci vedeva normale, adesso invece lo memorizzi e tira direttamente in HD. Confermo. Ah, cazzo, allora me lo memorizzo, sì, perché infatti la sto guardando a 501, 502, 503. Poi da sapete tutta la mondetta chi fa, chi si nelle, come si chiamano quelli delle televendite, per carità di Dio, cazzo, tutto pieno, vaffanculo. Oh, è una vergogna, guarda, una vergogna, per carità. Ok, ciao a tutti, ciao. Ciao Gianfra, ciao. Ehi, ciao. Beh, Claudio, se mi dici... Quindi la biocco, tanto la vedo ogni mattina, come ho detto, mi alzo presto, faccio colazione, verso le 7:15 porto il cane, una passeggiata. Ehi, la stessa cosa ti dico, sono le 10, ero qua in radio perché mi stavo sistemando col microfono, stavo facendo le temperature al Mickey Game, così in cuffia, tanto bambazzavo, e poi è entrato anche Fabrizio, lo sorvegli. Uia. Ti saluto Luca Riemi, mi gioco di lunghezza, me ne vado nel salone, ciccia. Ciao, buonanotte, sono di loro. E saluto anche tutti quelli che sono all'ascolto. Ciao! Ciao, buonanotte anche a te, a domani, ciao. Ciao.